Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Pirlo, occhio che può provare anche il tiro. Cerca di bucare Nick Steiner, Stefan! Nick Steiner! 1-0! Non puoi far giocare liberamente Pirlo, perché quando mette questi palloni è mortifero. Mette fuori Nagatomo, in qualche modo con il tacco, Vidal la butta dentro, Pogba la controlla, rinforza Pogba, poi Giorgio! Chiellini! 2-0! In area Llorente di forza, palla di Pogba, contrasto Arturo Vidal, 3-0. Gori, gori, gori, gori, l'hanno visto Piazzatomo che vedeva i suveni. Secondo me sono ricoglionito. Ma completamente, non può tenere fuori dei giocatori, non hanno i giocatori, non ha la rosa della Juventus che si può permettere di fare un turnover. Chi è? Un tifoso della Lazio, bravo. Che devo lasciare la Lazio, ecco, che devo lasciare la Lazio prima possibile? Ah, perché non lo dici, scusa, come ti chiami? Perché non lo dici come ti chiami? Mamma mia, morti! E non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto quando io penso, perché mi tirano i coglioni! Cantala, non voglio sapere il tiro! In fondo all'anima, per sempre tu, perché non è una promessa, vabbè, sono un po' stonato, ma è quello che sarà però. Allora, Berti, Lotito, Pozzecco che avete sentito vicino ai coglioni, Fognini che canta per sempre tu, insomma, trash talk domenicale. Pardo, indovina chi c'è qui con me. Chi c'è lì con te? Non è difficile. Il signor? Esatto. Il signor Cruciani, che ho incontrato anche ieri, ormai è un incubo per me, ma anche io per lui. Allora, devo dire, sono io, faccio una confessione, quello che ha chiamato Lotito sono io. L'ho chiamato io, a uno dei suoi tantissimi numeri di telefono, ho chiamato a dire oh, Aloti, e vattene, no, scherzo. Ovviamente presidente sono... ideale per la Lazio. Tu come sei? Sei lotitiano? Cioè sei di fronte, ecco, di fronte, diciamo, anche no. All'eccesso, no? No, ma mi sono chiesto una cosa, scusa Pierluigi, ma un presidente, questo è il bello e il brutto di Lotito, no? Cioè un presidente normale, non è che lo chiamano i tifosi, non è che a Toir arriva la telefonata sul cellulare di un tifoso incazzato dell'Inter, cioè non è che non succede questo, invece Lotito che c'ha 40 telefoni che sono a disposizione praticamente di tutti, che circolano liberamente per le radio, per la televisione eccetera, può arrivare anche, no, la telefonata di un tifoso che lo insulta. Ma 50-80 ha detto, ho ricevuto 50-80 minacce di morte. Come la Boldrini. Come la Boldrini, dicevi prima. Lotito come la Boldrini. Senti. No, queste sono cose gravi ovviamente, ma a Lotito sono sempre arrivati questi messaggi. Ma io continuo a pensare, io non ho mai capito questa storia. Cioè, un giorno me la spieghi tu che sei di Roma, sei tifoso della Lazio, eccetera, eccetera. Un giorno me la spieghi, mi spieghi perché i tifosi della Lazio. Beh, è una storia lunga, Luigi. È una storia lunga che ha a che fare con gli affari, con i soldi, con tante cose. È il presidente ideale per la Lazio. Cioè, io fossi un tifoso della Lazio. È una storia che ha a che fare con gli affari, probabilmente per quanto riguarda certe franche. Secondo me, se posso interpretare il sentimento di una porzione importante dei tifosi della Lazio, c'è un po' di difficoltà nel capire qual è la prospettiva, qual è il futuro. Poi, ripeto, vedendola, appunto, Carlo fa questo discorso, no? Vedendola fuori da Roma, uno dice: ma incomprensibile. Incomprensibile. È arrivato, ha risolto dei problemi, no? Almeno insomma la società che stava per fallire, si è fatto rilanciare il debito, ha vinto, è andato regolarmente in Europa, ha vinto la Coppa Italia. Vabbè, no. Ma lasciamo perdere la Lazio, che. Ma scusa, vogliamo parlare dell'ennesima follia che è stata fatta a tuo danno nel presentare i gol, ancora una volta i gol dell'Inter, che abbiamo sentito, della Juventus, che abbiamo sentito prima col commento di Sky. Oh, cioè, di una gravità inaudita col signor Carezza, l'ennesimo complotto ordito. Ormai facciamo apposta. Ai cioè, tuoi danni, cioè, prendete ogni tanto qualche commento di media. Facciamo apposta. Comunque, tre stock domenicali di una domenica di massacri sportivi, ne ho visti tre uno in fila all'altro. L'Atalanta che spacca il Napoli, e abbiamo sentito prima Berti dare un giudizio posato, ma ne ha dato uno via Twitter anche Materazzi. Vuoi saperlo subito? Dimmelo, dai. Twitter di Materazzi, stessa tattica, stessi modi, stessa paraculaggine, iniziano a conoscerti, meglio tardi che mai, il tutto con l'aggiunta del simbolo di un maialino, questo indirizzato a Benitez. Ma sì, è Materazzi, dunque non è una novità che... Beh. Come dire, che non abbia proprio Benitez tra i suoi... No, sai che lui passava davanti all'ufficio di Benitez e cantava José Mourinho, Sì, ma insomma, adesso, francamente, Materazzi con Napoli non c'entra nulla, per cui mi sembrano delle cose anche abbastanza gratuite, però ormai fa il commentatore, dunque giustamente giudica anche il Napoli. Non è che fa il commentatore, c'è Twitter, questo straordinario acceleratore delle passioni, delle emozioni, dei commenti, perché tu magari sei, non hai caso di Materazzi, vedi una partita, no, bevuto un bicchiere di troppo, la prima cazzata della testa la spari lì e rimane agli atti. Poi nel caso di Materazzi chiaramente c'è una premeditazione, perché Materazzi non si è mai nascosto da questo punto di vista, e rimane il grande sospetto di cosa potrà essere successo tra Materazzi e Benitez in quei mesi, perché io sinceramente storie di inimicizia a questi livelli nello sport professionistico non le vedo mai. È vero, è vero. Però ma veramente c'era da pensare che io abbia parlato con la fidanzata dell'altra o cose simili, sto scherzando, però voglio dire, insomma, è una cosa, hanno pure vinto una Supercoppa italiana e un mondiale per club. Sì, ma con Materazzi ti ricordi la storia di Materazzi che venne tenuto fuori anche, ma era fuori anche con Mourinho, No, ma Mourinho però intelligentemente gli dava un ruolo, la passerella, no? Che fosse un minuto o due, Materazzi non chiedeva certo di essere titolare, però quantomeno di partecipare in quanto anima di quello spogliatoio. Comunque, secondo massacro sportivo, la Juventus che fa pezzi d'Inter, tra poco ne parliamo anche con voi. 800240024 Seattle, non a caso abbiamo scelto la canzone di Bruno Mars che ha cantato ieri. Seattle Seahawks che distruggono i favoritissimi Broncos facendo un male cane a Peyton Manning, agonistico naturalmente. Sì. Facendo tra l'altro un favore agli italiani, perché dopo il primo tempo era finita, quindi abbiamo visto tutti. Alle 2 e un quarto anche siamo andati. Giuseppe Cruciani, che oggi ha due occhiali su Spettro, lui dice: ho visto il Super Bowl, ma questo io non lo so. No, ho visto due tempi, poi francamente la situazione era talmente compromessa che mi sono un po' addormentato e mi sono risvegliato con la pubblicità alle 4:15 che era già finito tutto. Strade. Io sorrido per un semplice motivo, tanto questa era una trasmissione ironica. Tutti convocati. Allora Giuseppe, da quale massacro vuoi partire? Ma dai, parliamo di calcio, il football non interessa a nessuno. Dopo ne parlo. Dai, a me interessa, dopo ne parlo. Ma sì, a me interessa, dai, anche a te, dai. La grande massa non è che è interessata a questo gioco strano. Noi siamo noi malati, io malato, ma la grande massa si occupa di Toirra, quel coro straordinario, hai sentito Pierluigi? Quel coro bellissimo su Toirra. Aspetta che arriva Pardo, è andato in bagno. Dannato. È andato in bagno, arriva. Pardo! Arriva, aspetta un attimo. Bagno, una cosa pazza. Non bisogna mai andare in bagno. Vuoi sentirlo un'altra volta? Fammi sentire il coro. Dai, ok. Cori, cori, cori, cori, l'hanno visto, Piazza Duomo, che vedeva i suveni. Cori, cori, cori, è tornato al bagno Pardo. Pardo, è un coro che ti piace oppure è volgare, violento? No, non è violento, ragazzi. Ma se questo è violento, allora veramente, cioè, mi imponiamo il silenzio dei tifosi. Questo è un coro divertente. Non credo che ci sia nulla di offensivo, nulla di discriminatorio. Ma sentiamo cosa dice invece Maurizio Crosetti. sono, dico la stessa cosa, ci siamo rotolati dal ridere ieri sera in tribuna, ma anche i colleghi, ma sai, milanesi, allora io posso insomma, dirti, ridevano tutti, dai, posso ridevano. Essere molto sincero, cioè guardandolo da fuori io sento una cosa così, poi mettiamoci le mille sfumature di grigio, di azzurro e di nero, sì. a me fa sorridere, fa sorridere, sì, pure dai. A me sì, sì, poi magari gli stessi che fanno questi gori poi ne fanno altri peggiori, quello è sempre da dire, perché chi fa questi gori sono gli stessi che poi devi morire o cose peggiori ancora, però comunque vabbè, dai, adesso sì, però secondo me il rischio poi è quello di buttare via tutto e quindi di togliere al calcio il suo stesso essere calcio, cioè se uno non può fare un coro del genere sul 3-0 allo stadio, cioè allora veramente. No, poi questo coro ha, Maurizio, una sua genialità, no? Perché il rimprovero che viene fatto a Toir, che poi è un po' in contraddizione con Hernanes, vabbè, comunque il rimprovero viene fatto a Toir dai tifosi dell'Inter è quello di non aver speso fino adesso. Cioè, è arrivato l'indonesiano che non spende, che sta attento. Di un cioccolataio, come ha detto l'altro, sì, giorno l'ascoltatore. Allora, capisci che chi si inventa questo coro? T'hanno visto in Piazza Duomo a vendere i souvenir, cioè ha una sua. È un genio totale, cioè. No, ma poi è perfetto anche dal punto di vista, come dire, del contenuto, non solo della, esatto, rima, della cronaca, o dell'ironia, perché effettivamente adesso Toir deve vendere alcuni dei suoi giocatori che sono di fatto dei souvenir del calcio, gente che va bene sul soprammol, va bene sui ripiani della libreria, insomma non sono più giocatori, sono pezzi di qualche ricordo lontano. Senti, hai descritto questa domenica come la fossa delle Marianne oggi su Repubblica. Ah sì, vabbè. Sai, quando si mangia troppo cioccolato al pomeriggio poi scappano le metafore, si delira un po', però sì, diciamo che tutta quell'acqua ha spalancato abissi, nei quali abissi è caduto soprattutto il Napoli, che non sa nuotare nemmeno coi braccioli ormai, e la Roma, vabbè, poveretta, la Roma non ha fatto niente perché non si poteva giocare, anche se è stata un po' una farsa, quegli 11 minuti sono stati... Ecco, ci vorrebbe anche un po' più di grande fantasia... Grande forza comica, eh? Sì, ci vorrebbe anche un po' più di fantasia nel reagire a queste situazioni, perché, sai, ovviamente torna fuori, ah, perché a Perugia si è giocato, e perché si è giocato Inter-Genoa una settimana fa. Oh, per carità, guarda, non me ne parlare. Anche qui ci vorrebbe un po' di fantasia. Sai come si risolve questa cosa? Perché decide l'arbitro. Dei tifosi, no, perché... Se la Juve no, però Moggi no, Collina, l'ombrello no, però la Roma, posso dirlo, che palle. Sì, sì, sì, sì, sì. È evidente che in ogni situazione c'è una valutazione che ha a che fare con le due squadre, la convenienza per le due squadre. Ma sì, si può giocare, si può giocare. Ma è normale, ma chiunque, la cosa oggettiva è questa: una persona normale che si mette di fronte alla televisione, una persona che ha lo stadio, si può giocare a pallone in maniera un minimamente decente oppure no? La risposta è no, e dunque non si gioca, punto. Ed è questo, credo, che hanno preparato. Poi se era la terz'ultima giornata, se era la penultima, era un altro discorso. Siccome siamo in un momento in cui ci si può permettere una partita che comunque un po' falserà il campionato, rimandata al 2 al 9 aprile, pazienza. Oggi siamo... Io tornerei su Inter Juventus. No, io direi una cosa sul Napoli però prima, perché io allora trovo... Fai tu. No, io voglio leggerti la formazione, che era questa. Del Napoli. Reina, sì, Maggio, Albiol, Fernandez, Reveiller, Inler, Zemaili, Caleon, Pandev, Martens, Zapata. Non mi sembra una squadraccia. No, però io trovo assurdo che la Roma scenda in campo. Cioè, se il motivo di non aver schierato Hamsik e Higuain da parte di Benitez è quello del turnover, allora mi dovete spiegare perché la Roma scende in campo invece, anche se per 9 minuti, con il Parma, con tutti i titolari. Perché vincere aiuta a vincere. Questo è un concetto che le squadre che sono in salute non vogliono perdere. Dunque vogliono, tu sei della partita dell'errore, cioè sei dell'errore di Benitez. Abbia sbagliato, e penso anche che probabilmente è stato anche un po' tradito dal fatto che la Fiorentina avesse perso il giorno prima e quindi ha tolto un po' di pressione, anche se chiaramente mancano ancora 15 giornate, però insomma, anzi 16, però secondo me psicologicamente ha un po' allentato la pressione da questo punto di vista, e il Napoli non ha sentito veramente la pressione forte della Fiorentina. Poi per me il problema del Napoli non è il fatto che non hanno giocato Higuain e Hamsik dal primo minuto, è che la difesa è imbarazzante, e lo dico con affetto, da 3 mesi, ed ero convinto, l'aveva anche fatto capire De Laurentiis, che con la campagna acquisti sarebbero arrivati dei rinforzi veri, qualcuno adesso è arrivato, vedremo quello che daranno questi giocatori, ma non mi sembra, sì, che l'approccio sia stato quello giusto. Questo è corretto, però io leggo la formazione dell'Atalanta in difesa: Benalma, Stendardo, Iepes e Del Grosso. Non mi sembra tanto peggio di quella del Napoli, voglio dire, nel complesso, ok, come macro disegno è così, mi sembra anche imbarazzante la condizione fisica in questo momento del Napoli. Prima di sentire Crosetti vi faccio sentire invece Berti, cosa ha detto su Benitez. Secondo me è proprio rincoglionito, Benitez, Benitez ma completamente, non può tenere fuori dei giocatori, non hanno i giocatori, non ha la rosa della Juventus che ci può permettere di fare un turnover. Ragazzi, il Napoli non può non giocare Higuain, Hamsik, giocatori che sono fondamentali, giocatori leader di una squadra, togli loro, d'accordo, hai dei giovani interessanti, hai dei bravissimi giocatori, ma non a quel livello. Dunque assolutamente Benitez bocciato, rincoglionito. Ok, questo Berti sul sito della Gazzetta potete sentirlo. Maurizio Crosetti, il massacro di Torino. La Juventus con grande cattiveria ieri ha fatto pagare all'Inter agonisticamente un sacco di cose. La mia sensazione è stata quella. Sì, sì, è così. Salvo poi scoprire alla fine che non ce n'era nemmeno bisogno, non ce ne sarebbe stato nemmeno bisogno. La Juve non sa essere diversa da quello che è, non può essere che questa. Però contro un Inter del genere potevano giocare anche tranquilli, dopodiché tranquilli non sono mai, e quindi... Però ci ha messo del suo, però, ragazzi. Chi? Perché alla fine... Chi ci ha messo del suo, non ho sentito? L'Inter. L'Inter. Ma è una serie di errori che si sono accumulati l'uno con l'altro, insomma... Guarin è un giocatore in questo momento perso, forse tornerà la settimana prossima, ma è un giocatore che è sparito dopo quella, la polemica in piazza, non si sa dove va, alla fine non ce l'hai avuto in una delle partite più importanti dell'anno. Hernanes, c'è stato il problema di deposito del contratto, che pure lì, voglio dire, Hernanes il 31 lo stavamo seguendo, che ha preso l'Intercity per venire a Milano, che ha preso il regionale, no, un problema di banche è stato, non so, sì, che cosa, un problema di banche, però voglio dire, con una situazione, sì, una cosa ridicola, tipo, sì, cerchi di risolverla prima, no, cioè dai, è l'ultimo giorno di mercato. E poi sinceramente anche la squadra ha avuto un atteggiamento, il primo gol della Juve è il gol classico, è proprio lo schema Pirlo Lichtsteiner, il primo gol che ha fatto la Juve nella sua storia con Conte, sì, contro il Parma due anni e mezzo fa, è così, ne ha fatti molti altri, non puoi lasciare Pirlo libero di impostare. Ma comunque i limiti chiaro dell'Inter non è che li conosciamo adesso. No, invece ero curioso di sentire Maurizio sulla vicenda Benitez, perché sulla Juve già ormai ha dato secondo me ampiamente in queste ore. Ma Benitez secondo me sta facendo un Napoli decisamente peggiore di Mazzarri, cioè oggettivamente mi sembra che poi alla fine ricada sempre nei soliti limiti. C'è un simpatico faccioccone della panchina che ha vinto molto, perché va detto ha vinto molto, ma ha anche perso molto, e a me pare che poi nei momenti decisivi si perda e trasmetta la sua paccioconeria alla squadra. Cioè ieri alla squadra Benitez ha detto non è così importante, la vinciamo facile, e la squadra l'ha persa facile. Tu dici? Non mi pare che stia facendo, poi anche le scuse che ha trovato dopo, cioè lui non può dire abbiamo perso per colpa degli episodi. Certamente sì, gli errori incidono sempre, ma ogni gol è un episodio, certo, vuol dire. No, infatti non vuol dire. Però giochi con una squadra così l'hai persa tu. No, ma è chiaro che il Napoli è inconcepibile, come il Napoli, che non è che sia una squadra che ha vinto 140 campionati, 30 Coppa dei Campioni, non giochi ogni partita di campionato con tutti i titolari. Per me è una cosa totalmente inconcepibile, a tre giorni da una partita con la Roma, che è sì importante, ma è pur sempre una semifinale di andata di Coppa Italia. Sì. Che ha, e tra l'altro con un avversario come la Roma, che invece giustamente era entrato in campo col Parma con tutti i titolari dal primo all'ultimo, perché il campionato è comunque la prima cosa. Poi che c'entra la Fiorentina che aveva perso? Che vuol dire? Napoli non è che deve arrivare terzo, il Napoli teoricamente deve arrivare secondo dove è arrivato l'anno scorso, per cui deve rincorrere, in realtà non è che si deve guardare dietro la Fiorentina, perché se arriva dietro la Fiorentina Benitez va cacciato a calci nel sedere. Oppure può essere che fai così per nascondere una condizione fisica che a me sembra imbarazzante, e magari qualche problema con i giocatori, perché la storia di Hamsik a me non è del tutto chiara. Non capisco perché sia sparito, mi dà quasi l'impressione di un giocatore che non sia più così interessato o non sia più così coinvolto in questo progetto. Chissà, saperlo. A saperlo, Pardo lo sa. No, beh, un giocatore ha avuto un infortunio, uno di tanti infortuni un po' misteriosi. Cioè, qualche mese fa a Roma c'era il mistero di Destro, tanto per fare un nome, poi Destro è tornato e ha segnato dopo mesi di calvario. E non, insomma, c'è più mistero. Si parla di pubalgia, di problemi muscolari non facili da risolvere completamente. Sicuramente Hamsik quest'anno, da quello Juve-Napoli lì, non è stato più un fattore, questo è evidente, insomma. Però la dietrologia mi sembra eccessiva, anche perché non mi pare che poi sia stato ceduto o siano successe cose particolari, no? Maurizio, prima di salutare te e il signor Cruciani, invece qui io vorrei che voi intervistaste nei prossimi giorni, dagli un consiglio pure a te, Maurizio. Voi dovete invitare l'ex fidanzata di Cavani, una delle notizie l'ex più belle. L'ex fidanzata di Cavani. Io inviterei tutte abbandonate. Le fidanzate ed ex mogli di questo periodo assolutamente trombatorico. E qui No, l'ex fidanzato. Anche perché quando gli altri fanno certe cose perdono, e quando invece le fanno gli juventini è come un'altra, hai capito? Non sto per dire un doping, ma una brutta parola. È un, come dire, è un propellente in più, insomma, la Juve riesce pure a vincere. Cioè, stai dicendo che Pirlo, nonostante tutto, nonostante un periodo piuttosto, come dire, frizzante dal punto di vista ormonale, dal punto di vista comunque sì, in campo non si sente. Sto dicendo proprio quello. Buffon sì, non c'era, Buffon non c'era, era squalificato e vabbè, però io voglio qui a tutti i convocati prossimamente l'ex fidanzata di Cavani, incazzata come una bestia perché Cavani l'ha piantata in asso per andare a Parigi e mettersi con altra cosa, parlo peraltro non particolarmente originale. Dentro alle cose ha compiuto cercarla. Vabbè. Grazie Mau. Grazie ciao, Maurizio. Ciao Giuseppe Cruciani. Tu stai lì, guarda, non ti muovere, non è ancora ora di tiki taka. Ma anche Cruciani, no? No, deve andare. Ma che deve fare il signor Cruciani che il programma è fra 4 ore, Cosa deve fare? Tanto sono gli ascoltatori, 800240024, li aspettiamo qui. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. Tutti convocati. Per questo a tutte le minacce che arrivano, ha sempre, sì, non so scherzare, ha sempre portato a che cosa? Tutti i giorni, ecco. Poi vengono registrate, poi ieri stagliati le minacce di morte, no, perlomeno 50, 70, 80, non è un problema. Ma il problema, cioè, poi non conoscendomi, più fanno così e più io poi divento una persona che se prima curava le cose anche con il sentimento, poi diventa molto freddo e irrazionale, dopo diventa. Aspettate. Sì? Sì? Chi è? È un tifoso della Lazio, bravo. Che devo lasciare la Lazio, guarda. Ecco, che devo lasciare la Lazio prima possibile? Ah. Perché non lo dici, scusa, come ti chiami? Perché non lo dici come ti chiami? Mamma mia, morti? Sì. Eh? Sì, normale, vabbè, da manicomio. No, allora, quindi questo è il problema. Vedi adesso? Questo è il quadro della situazione, ragazzi. Beh, stasera lo chiami a Tikitaka, devi chiamarlo. Sì. Telefonagli, fagli uno scherzo telefonico. Mi sembra eccessivo. Pronto Lotito? Pronto Lotito. No, è una situazione molto amara, secondo me. È molto amara perché comunque ci sono dei limiti che, ma certo, che non si dovrebbero ovviamente mai superare. E... ma vedi, lui è un califfo anche nel gestire situazioni di questo tipo. Sì, no, ma infatti è straordinario. Ripeto, io capisco una serie di... No, io non capisco. Quando uno però voglio dirti, a non capire più. Io non sono soltanto delle fette, diciamo, di tifoseria, non è soltanto una questione che riguardava Cruciani, che può essere anche legata a rapporti anche di business commerciali, cioè, no, questo lo sappiamo. Tutte le squadre, no, commerciale, gestione di tutta una serie di cose fra pezzi di curva ma vedi, società. Uno dei grandi meriti di Lotito sta proprio nel fatto che a questi dato spago. C'è una molto considerevole, i tifosi della Lazio, adulti, vaccinati e non... e persone equilibrate, evolute, eccetera eccetera, che comunque ce l'ha tantissimo con Lotito nonostante i risultati visti dall'esterno, visti da Milano. Uno potrebbe anche dire, insomma, questa è una società che stava fallendo e non ha trovato e ha trovato comunque dei risultati di un certo livello negli ultimi anni. Gli ultimi anni ha fatto meglio della Roma nelle ultime stagioni, non è che discute da questo punto di vista. Certo, a proposito di Lazio e di derby in prospettiva, sai che ieri Rai ha detto: beh, spero che faccia una gran fatica con il Napoli, se poi qualcuno si infortunasse non sarebbe neanche male. Oggi ha chiesto scusa, ci aspetta una partita importante, infortuni per la Roma. Le mie parole erano per sdrammatizzare, chiedo scusa, volevo fare una battuta, mi è scappata una frase infelice, così è di Rai. Perfetto, giustissimo. Certamente. La scusa mi sembra chiarissima e non ho motivo di dubitare. Insomma, lei è una persona per bene e sicuramente questa cosa non l'ha neanche mai pensata. Gli è uscita male così. La battuta, questo non ci sono dubbi. Credo sia veramente andata così. Sarebbe grave, ma non voglio pensare sia così, appunto. Ascoltatori, parliamo in tweet, 140 caratteri, così ne abbiamo tanti, riusciamo davvero a parlare con tanti di loro. Carlo Cagliari, buongiorno. Buongiorno, intanto complimenti a voi e a Cruciani per le vostre due trasmissioni. Grazie. Premetto che sono juventino e come sappiamo in Italia Guelfi e Ghibellini. Altra premessa, vincere con la Roma è come picchiare con la Roma, con l'Inter è come picchiare un bambino piccolo, quindi non ha nessun senso. Picchiare un bambino piccolo. Non è polemica. Abbiate parlato voi all'inizio della famosa partita giocata, arbitrata da Collina a Perugia. Però io non ho visto nessun parallelo televisivo. Ma no, ma Carlo, ma allora, ma chi se ne frega della partita di Perugia di... No, guarda, di, il parallelo l'abbiamo fatto ieri a Premium, per esempio, l'abbiamo fatto, lo facciamo anche stasera, ma lo facciamo come gioco. Perché, ma sicuro, ma... perché è un gioco, perché ogni partita ha un campo in condizioni diverse. E perché comunque sia. Ma non c'è stata, secondo me, un'uniformità di giudizio. Vabbè, ma come l'uniformità si fa a non esiste. Di... L'uniformità nella vita non esiste. Il mio umore di adesso è diverso dal mio umore fra 20 minuti. Cioè, questa cosa dell'uniformità è. Non, perché ogni pioggia è diversa, perché ogni terreno è diverso, perché ogni situazione è diversa. Poi, se lei mi chiede se quella partita famosa di Perugia in qualche modo è stata condizionata da quello che era successo la settimana prima, e cioè il famoso gol del Parma annullato che invece era buono, le polemiche c'erano state durante la settimana, i tifosi della Lazio sotto la sede della Federcalcio, questo ci può stare, ci può stare, era l'ultima giornata di campionato, non dimentichiamocelo, era una situazione oggettivamente molto molto particolare. Sì, Pier, però se, ma si fa troppa letteratura, dai. Che a Istanbul, se non fosse stata l'ultima partita del girone, con il problema dei sorteggi che dovevano essere fatti il lunedì della settimana dopo, e quindi con un calendario impossibile, e l'UEFA da questo punto di vista più che svizzera è tedesca, proprio è merkeliana, sicuramente quella partita lì su quel campo non si doveva giocare. Io ero lì e per me su quel campo lì non si può giocare a pallone, per quelle che sono le logiche del calcio moderno. E la Juve sicuramente è stata penalizzata. Però aspetta, la Juve è stata penalizzata, va bene, però molto banalmente a me viene da pensare, si gioca per errore su un campo impraticabile, poi il campo bagnato è un'altra storia perché fa parte della logica del calcio. Si gioca su un campo impraticabile, ma molto banalmente viene da dire che è impraticabile per tutte e due. Sì, sì, infatti il Galatasaray è stato più bravo della Juve nell'interpretare la partita. Però perfetto. Sicuramente un terreno più normale avrebbe consentito alla Juve di giocare un calcio più tecnico. Secondo me, facendo una valutazione tecnica dall'esterno, che non me ne può fregare di meno, la Juve lì è stata svantaggiata dagli eventi. Poi il Galatasaray, ma ti faccio un altro esempio, l'anno scorso Lazio-Roma, derby d'andata, si giocò su un terreno che improvvisamente cambiò perché arrivò al dubifragio al quarto minuto del primo tempo e la partita cambiò completamente. C'era ancora Zeman nella Roma che continuò a cercare di fare un gioco palla a terra che su quel terreno lì non poteva funzionare. Ma questo fa sempre parte delle logiche del calcio, secondo me. E lì sicuramente la Roma è stata svantaggiata da quel terreno, ma la Lazio è stata brava nel farsi avvantaggiare. Sì, però ti dico, un conto è avvantaggiare e svantaggiare, un conto è fare dei paralleli a distanza di anni e sottintendere una premeditazione, un disegno che chissà quale può essere. Alberto. Pronto? Alberto da Treviso, dica. Grazie di avermi convocato. Volevo dire una prima considerazione su quello che ha detto Paolo. Ma sarebbe stato giusto che la Juve si qualificava con 6 punti? Cosa vuol dire giusto? Non sarebbe la Juve, ha fatto un pessimo girone di Champions ed è uscita meritatamente per stessa ammissione di Conte. La Juve è uscita perché ha giocato un pessimo girone di Champions League. In quella situazione lì, se mi chiedete il mio parere da esterno che stava lì, la Juve, che per me era la squadra più tecnica delle due, su un terreno migliore avrebbe avuto un comportamento e una performance migliore. Ma poi si è giocato, il Galatasaray è stato bravo, ha fatto il gol e la Juve è uscita meritatamente. Nessuno discute, cioè un conto è dire Nadal è più forte sul cemento o sulla terra battuta. Allora, se giochi su un terreno è più bravo e quindi è avvantaggiato per quelle che sono le sue caratteristiche. Poi però se perde, perde meritatamente. Sì. Cioè, voglio dire, non è che... è anche vero che uno degli assiomi è se ti basta un pareggio, il terreno in cattive condizioni può aiutarti perché sono gli altri che devono vincere. Questa può essere un'altra considerazione. Però poi se ti segnano non pareggi più. Ma certo che è così. Comunque la Juventus ha giocato un pessimo girone e la logica conclusione è stata una pessima e surreale partita. Quindi Michele da Pesaro, buongiorno. Buongiorno. Sentiamo male. Sincopato. Luigi tu Napoli. Fare la telefonata sincopata? No, tu? Il nostro amico, il maestro è Luca Marchetti. Luca Marchetti, ah, sì, che si occupa anche di mercato del tempo libero. Cioè quella coi buchi? Quella dove comincia a parlare fa quando c'è qualcuno con cui non vuoi parlare, no? È fantastico. No, io volevo parlare con Michele da Pesaro, magari lo faccio dopo. Adesso però parlo con Luigi da Napoli. Pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Siamo da Napoli. Volevo parlare dell'Inter di Mazzarri. Escludendo la partita di ieri, che purtroppo, vabbè, non è colpa di nessuno, la Juve è superiore e basta. Ma Mazzarri è un allenatore mediocre. Non riesce a battere Sampdoria, non riesce a battere Parma, non riesce a battere Torino, Catania, non sa mettere la squadra in campo. Gli unici che ci possono risollevare sono due, sono Oriali e Simeone, praticamente da dell'Inter agli interisti. Cabrera, Oriali come direttore sportivo e Simeone come allenatore. Allora noi potremmo veramente iniziare a fare una squadra per stare vertici. Ma non lo so, io darei l'Inter a qualcuno di competente, poi secondo me questa storia dell'Inter interisti, del Milano milanisti, Oriali è competente e Simeone è Oriali è diventato l'uomo che manca all'Inter dopo che se n'è andato via insieme a Mourinho, ma non dimentichiamo che con Oriali c'era anche Mourinho e non dimentichiamo anche che Oriali c'era prima di Mourinho, quindi vabbè, comunque sappiamo che è l'uomo più rimpianto in assoluto. Adesso però aggiorno delle posso statistiche, dire, sì, poi dico quello che vuoi. Sì, se cioè, mi passi questo come benitezza, secondo Materazzi, come dice Verdone in quel film, no? Che cos'è paraculo? E paraculo è un avverbio, ecco, più o meno siamo e dal punto di vista di Toir chiaramente lui avrà le sue idee, sì. Però cioè, Oriali secondo me rappresenta un buon mix tra competenza e affetto da parte dei tifosi, legame con l'Inter, quindi è una figura di alto profilo professionale. Ma perché, non l'ha chiamato? Oppure l'ha chiamato? Non lo so, dimmelo tu. La vera domanda che c'è adesso è capire quanto Toir si sarà arrabbiato, se si è arrabbiato veramente, sì, per il modo nel quale il mercato è stato condotto. Perché, come ricordavamo la settimana scorsa, la vera anomalia è che qui c'è un signore che è arrivato, ha messo il 70% del capitale di una società, ma non ha ancora messo un suo singolo uomo al comando. Quindi appunto, è assurdo. Questo ti viene da dire come logica, no? Se Oriali ha fatto quello che ha fatto è l'uomo più rimpianto in assoluto, cioè la prima cosa che ti aspetti è ok, è arrivato Ir, prende Oriali, il suo rappresentante, siamo tutti contenti e un po' più tranquilli. Oggi è il giorno delle statistiche, ma le conoscerai anche tu, Pierluigi Pardo, che adesso saluto. Mazzarri 33, Stramaccioni 40, Mazzarri sesto, Stramaccioni quarto, ovviamente parametrato all'intertempo della 22esima di campionato, 39 gol per uno, 36 per l'altro. Poi in generale l'Inter 8 punti nelle ultime 10 partite, vabbè, sono numeri abbastanza impietosi. Ne parlerai stasera a Tiki Taka con chi? 23-30 con mezzo mondo, Mughini, Cattoferri, Arena Santarelli, Bernardo Corradi, Auriemma, perché parleremo ovviamente molto anche di Napoli. Santarelli e Corradi vengono sempre in coppia, disgiunti non è possibile. Non no, in realtà è la prima volta che vengono in coppia. Non la prima volta. Mai venuto in coppia, ci hanno fatto questo regalo, anche perché appunto è una novità. Uh-huh. E poi, molta Inter ovviamente, molto Napoli, e poi quello di cui abbiamo parlato adesso, insomma, capire un po' le polemiche, il terreno, Roma-Parma, se si poteva giocare, se tutto questo ha un senso, chi può essere avvantaggiato, insomma, tante cose stasera. Ciao Pier, buon lavoro, ciao, domani. Traffico, poi torno a parlare ovviamente con gli ascoltatori, 800240024, il numero verde. Tutti convocati. Allora, vediamo se sono migliorate le comunicazioni Milano-Pesaro. Michele? Pronto, mi sente? Adesso ci provo, proviamo, dica, facciamo allora, una prova. Proviamo. 1, 2, 3. Provo 1, 2, 3. Ok, dovremmo esserci. Allora, cambiamo pagina, parliamo di Torino. Torino, volentieri. E tra l'altro Immobile a quel Sassuolo aveva le pinne a quel punto, perché ha fatto un gol impressionante nell'Ascus, cioè, c'erano delle poste incredibili, quindi... Ma io rimango comunque per paradosso convinto del fatto che, insomma, se il campo è brutto, è pesante, eccetera, i giocatori di maggiore talento, quelli che hanno qualcosa in più, un po' di magia, riescono a fare anche giocate di questo tipo. C'è qualcuno che sottolinea Snyder a Istanbul, che fece gol, insomma... Ma io la penso così, forse è un po' forzata, però la penso così. No, assolutamente ragione. Volevo porre una domanda, se è possibile, per voi che siete degli addetti così puntualmente informati. Se non è difficile. Secondo voi, finalmente, il Cairo vuole veramente iniziare un progetto a lungo tempo per... Ma non lo so. Io credo soltanto che abbia trovato l'allenatore giusto, i giocatori giusti, anche qui è una questione un po' di magia, un po' di chimica. C'è Immobile che è esploso, ricordiamo, non dimentichiamo però che questa stagione del Torino era nata sotto una pessima stella, cioè con i tifosi comunque in subbuglio perché non consideravano la squadra adeguata. Invece io credo che, insomma, l'ho detto anche a Cairo una volta che è intervenuto, mi sembra che per quel contesto Ventura sia l'allenatore perfetto. È chiaro poi che si è trovato il toro di fronte alla consacrazione di Cerci, all'esplosione di Immobile, ed è per questo che sta facendo una grande stagione. Tra l'altro, secondo me gioca molto bene a pallone il Torino. Giampaolo, Roma? Sì, salve, buongiorno, grazie per avermi convocato. È lei che telefona allo Tito, dica la verità. No, io telefonerei a De Laurentiis. Però... A De Laurentiis, per dire che cosa? Beh, io direi questo, insomma, che secondo me la stagione di Benitez fino ad oggi non è una stagione negativa assolutamente, anche perché il Napoli, insomma, con un pizzico di fortuna in più, adesso sarebbe agli ottavi di finale di Champions League. Comunque siamo in semifinale di Coppa Italia. È vero, le ultime partite sono preoccupanti, ma la preoccupazione secondo me è la tenuta atletica dei giocatori. Ma io la penso esattamente come lei, l'ho detto prima. Perché abbiamo Hamsik che si è infortunato, Zuniga la stessa cosa, Higuaín che tutto sommato sì, segna, un fenomeno, va bene, ma atleticamente non mi sembra in forma, per cui io vedo una squadra da un mese a questa parte che è completamente fuori forma. Sì. E non so se Giampaolo, no, ma è quello che penso anch'io, anche perché, torno a ripetere, Benitez è stato ed è sul massacrato mediaticamente per aver fatto molto turnover ieri, forse eccessivo, questo sì, però leggo, ripeto, la formazione del Napoli mi sembra una squadra di comunque di buon livello. Quello che è vero è che è una squadra, ma non da ieri, che mi sembra stia patendo molto dal punto di vista fisico, mi sembra parecchio giù dal punto di vista fisico. Perché... Certo, però mi permetto di dire soltanto l'ultima cosa, è vero che ha tenuto fuori Hamsik, ma l'Hamsik di questo periodo non è l'Hamsik dell'anno scorso, insomma tenerlo fuori non è neanche suo cugino, non è neanche il cugino di quello dell'anno scorso, infatti secondo me è vero, però alla fine non è così, Hamsik non è in forma e non è in forma da un bel po', insomma. Esatto. Esatto, e per questo, secondo me, a proposito del Napoli, il domandone è questo: che fine ha fatto Hamsik? È solo una questione di infortuni, di forma fisica? È chiaro che quello è il giocatore, che per questo Napoli ti trasforma la squadra con i suoi gol, con i suoi inserimenti, con il ritmo che riesce a dare, eccetera, eccetera, per molti motivi, ed è un giocatore non replicabile nemmeno da Jorginho, nemmeno dagli altri che sono arrivati. Quindi la vera domanda è: che fine ha fatto Marek Hamsik? Perché è in queste condizioni? Ripeto, è solo questione di infortuni? Non lo so, mi piacerebbe saperlo però. Vittorio, provincia di Pordenone, buongiorno. Sì, buongiorno. Una cortesia, volevo il suo pensiero in merito a Mazzarri. Nel senso, sta parlando tanto di questa Inter e di come gioca, ma io non vedo un gran gioco. Quando ha finito Palacio, abbiamo visto com'è, non è in forma, ha finito di giocare l'Inter. L'Inter non crea più nulla. E non sta proponendo niente, poi si può anche con la Juve che hanno fatto la stessa partita. Ma io ieri, guardi, Vittorio, ho seguito ovviamente con grande attenzione la partita e anche il dopo partita. Quello che nel primo tempo mi è sembrato lampante è stata la libertà e il tempo che sono stati, quindi lo spazio e il tempo che sono stati concessi a Pirlo per le sue giocate. Perché ormai lo sanno tutti, Pirlo è un giocatore sul quale ogni volta che c'è la palla devi andare a dargli fastidio, a contrastarlo anche fisicamente. Ecco, ieri giocava libero. Quanto tempo ha avuto per dare quella palla a Lichtsteiner? Tantissimo. Per un giocatore come Pirlo ha avuto un'infinità di tempo, un sacco di spazio, e quindi riesce a mettere quei palloni. Poi nel dopo partita Mazzarri ha detto dovevo su di lui, dovevo uscire Kovacic, che non è stato in grado di contrastarlo, di andarlo a coprire come era nei piani partita. Kovacic ha sbagliato su quella copertura su Lichtsteiner. Insomma, Kovacic il capro espiatorio, come diceva l'altro giorno Messi e Malossen di ieri sera. No, in realtà l'Inter, una cosa che io sinceramente non riesco a capire è il motivo per cui fin dall'inizio, anche quando l'Inter era in un'altra condizione fisica, in un'altra condizione anche emotiva, perché diavolo si insiste a giocare con una punta sola, e cioè il povero Palacio che non ha neanche il physique du roll, no, per giocare da unica punta in situazioni come quelle di ieri, soprattutto contro squadre come la Juventus che hanno grande stazza. Vabbè, Sentiamo Mazzarri su ieri sera, sì, sentiamolo. E prendere un gol su una mischia dove la palla l'avevamo noi, che la palla non usciva mai dall'area di rigore, loro con la forza, con l'adrenalina sono riusciti a fare il secondo e poi il terzo gol su un fallo laterale, lì mi sono arrabbiato davvero, anche perché poi alla luce di quello che è successo dopo, perché i cambi erano previsti, perché chi giocava non poteva avere 90 minuti, ritmi eccetera eccetera. E sapevo che la Juventus, dopo, quando fa un calcio così dispendioso, può calare, tant'è vero che anche sul 3-0 abbiamo fatto delle azioni buone, abbiamo creato due o tre palle gol importanti con Palacio, e se fosse rimasto 1-0 probabilmente ce la saremmo giocata fino all'ultimo minuto. Prendere due gol così, sinceramente mi sono arrabbiato tanto. Carmine, provincia di Como, ha sentito Mazzarri? Sì, purtroppo noi l'abbiamo avuto per 4-5 anni a Napoli. Ma come purtroppo? Ma scusi, ma Napoli ha fatto un cosa si può dire su Mazzarri? No, lo spiego io perché purtroppo, perché nonostante lui avesse alcuni campioni da Cavani e Lavezzi, i risultati non è che sono stati eccezionali. Forse si poteva ottenere qualche altra cosa. Io non credo, in tutta onestà, Carmine, mi perdoni. Le polemiche si stanno scatenando nei confronti di Benitez. Io faccio questo ragionamento: se io da tecnico so che nei prossimi 26 giorni tra campionato e coppa devo fare 8 partite in 26 giorni e so che la mia squadra, diversi calciatori, da Higuain a Hamsik eccetera, sono in condizioni fisiche pessime, devo far ruotare, anche perché non si spiega che senso ha avere delle rote dei 20-22 giocatori e non farli giocare tutti. Bravissimo, è esattamente quello che penso io, poi se ieri magari mette Higuain dal primo minuto al posto di Zapata, che sinceramente non mi sembra un giocatore da questo livello, se c'era bisogno di un'altra conferma abbiamo avuta ieri, non so se tornerà ad essere nelle rotazioni turnover o non turnover. Vabbè, è chiaro che allora vuoi fare mercato, vuoi ampliare la rosa, vuoi avere dei backup all'altezza eccetera, poi quando li fai giocare ti massacrano. Ma ripeto, la squadra la formazione di Napoli ieri non è una squadra che viene massacrata in quel modo dall'Atalanta, meravigliosa finché volete, ma mi sembra una squadra anche di discreta qualità. Tutti convocati. Questi Red Hot Chili Peppers nella notte di New York nell'intervallo del Super Bowl. Molti mi scrivono: ma parlate di Super Bowl, non parlate di rugby. Cosa dobbiamo dire? Una squadra che perde sempre nella nazionale italiana, dov'è la notizia? Cioè, giocato sabato, asfaltati dal Galles, l'unica nota positiva, hanno giocato dei ragazzi molto giovani, speriamo che giochino molte altre partite in queste sei nazioni, almeno sarebbe una buona ragione per perdere, come facciamo sempre peraltro. Io continuo a pensare che a livello professionistico non si possa dire: ah, però onorevole sconfitta, abbiamo giocato bene un'ora. Peccato che la partita dura un'ora e mezza e le prendi sempre. Vabbè. Massacro a New York invece. Prima dicevo di tre massacri sportivi, un in fila all'altro, che ho visto televisivamente: prima l'Atalanta sul Napoli, la Juventus sull'Inter e poi il Super Bowl. I strafavoriti Broncos proprio letteralmente annientati da Seattle. Matteo Gandini è ancora a New York City. Ciao Matteo. Ciao Carlo, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio anche agli amici a casa. Imprevisto, imprevedibile, quasi impossibile alla vigilia. Cioè, al di là del risultato 43-8, però ti dico, qui in Italia eravamo tutti abbastanza contenti perché a fine primo tempo siamo andati a letto sapendo già che avrebbe vinto il Super Bowl. Eh sì, direi di sì, è stato un Super Bowl a senso unico come pochi nella storia recente, poi come dicevi giustamente tu, dall'esito assolutamente imprevedibile. Basti pensare che i Broncos erano arrivati a questa partita dopo la miglior stagione di sempre in termini di punti ottenuti e yards in regular season, quindi pensare che sarebbero stati tenuti a soli 8 punti dai Seahawks era qualcosa assolutamente di impronosticabile. È anche vero che Seattle aveva la miglior difesa invece della regular season e lo ha confermato ieri giocando una partita di grandissima intensità, di grande intimidazione anche dal punto di vista difensivo. Basti pensare che alla prima giocata della partita è successa la cosiddetta safety, ovvero un'azione che possiamo in un certo senso paragonare all'autogol del calcio, chi non conosce il football, quando il giocatore viene placcato dalla propria end zone e la squadra avversaria prende due punti. quell'azione è stata un po' l'emblema della partita, perché da lì in poi i Broncos non si sono più ripresi, hanno fatto tantissima fatica a sottoporsi costantemente alla pressione difensiva dei Seahawks, che sia nei giocatori che mandavano a caccia del quarterback Peyton Manning, sì, che proprio invece nei difensori più arretrati, quelli che dovevano marcare, per così dire, i ricevitori dei Broncos, sono sempre stati in grado di mettere una pressione, sì, a un'intensità. Cosa che si sapeva, cioè si diceva i Broncos devono temere la velocità, la rapidità, la fame, la cattiveria, la spregiudicatezza dei difensori di Seattle. Esattamente quello che è successo. Ma sai cosa mi ha impressionato? Cioè una leggenda come Peyton Manning, uno dei grandi della storia del football, annientato dal punto di vista mentale. Cioè mi è sembrato davvero che gli abbiano fatto male emotivamente. Cioè ogni volta che prendeva la palla ne aveva già due appesi al casco, e si è visto anche in una serie di passaggi sbagliati, di errori che un super come Peyton Manning non può fare in situazioni normali. È verissimo, è anche vero però che Peyton Manning viene considerato non propriamente un vincente nell'NFL, perché sì, rispetto ad altri suoi colleghi di diciamo caratura leggendaria come lui, basta citare Tom Brady, lui ha vinto soltanto un Super Bowl, ne ha persi due, e nei Super Bowl ma anche in altre partite importanti di playoff non ha assolutamente brillato come ieri. È chiaro che nel football poi quando vince il quarterback è l'eroe, il merito è tutto suo, quando perde la colpa è tutta sua, e non è propriamente così, perché ieri l'offensiva non ha tenuto come doveva, i ricevitori hanno perso troppi palloni, la difesa è stata bucata comunque dall'attacco di Seahawks, quindi la colpa non è soltanto di Manning, però il simbolo, l'emblema della sconfitta è lui, perché anche e soprattutto quei due palloni che ha lanciato e che sono stati intercettati nel secondo quarto sono un po' insomma quello che ha fatto precipitare, certo, la squadra dei Broncos. La cosa interessante è che i Seahawks non sono la prima squadra della storia NFL che vince grazie alla difesa, pur avendo un attacco sostanzialmente soft, non particolarmente brillante. L'hanno fatto altre storie del passato, si ricordano i Bears dell'85 che sono considerati la difesa più forte di sempre, qualche altra storia l'ha fatto più recentemente, però che l'abbia fatto Seattle adesso in un momento dell'NFL in cui le regole sono cambiate molto per favorire l'attacco è veramente qualcosa di notevole. Negli ultimi anni l'NFL, un po' per proteggere i giocatori ed evitare guai fisici come commozioni cerebrali e un po' perché chiaramente più punti vengono segnati più c'è spettacolo, ha impedito ai difensori di colpire come si faceva qualche anno fa, ha inserito nuove regole per favorire il gioco dell'attacco. Il fatto che adesso nel 2014 Seattle l'abbia vinto con la difesa in questo modo fa capire veramente quanto forte sia questa difesa. Certamente. Matteo, ti ringrazio. L'abbraccio. Grazie Carlo, a presto. Ciao Matteo Gandini. Allora, Marco scrive un SMS: mi spiegate come Mazzari ha fatto a sedersi sulla panchina dei Broncos? Voglio farvi sentire invece un paio di cose di ieri. Prima abbiamo aperto il programma, ma solo con brevi estratti a proposito del trash talk domenicale. Allora, Gianmarco Pozzecco, allenatore di Barcellona Pozzo di Gotto, Lega 2 di basket, ieri gioca a Fiorentino, perde Capo d'Orlando, scusate, naturalmente perde, gioca Fiorentino, perde, si arrabbia con l'allenatore avversario, cioè Gramenzi. La sua reazione in conferenza stampa è stata questa: ho sempre rispettato il mio avversario, ho sempre cercato di sconfiggerlo, ma in modo leale, e quando ho vinto ho festeggiato, mai, mai permettendomi di infierire sullo sconfitto, e quando ho perso sono sempre uscito a testa alta, e la maggior parte delle volte, proprio perché sono fatto così, ho subito dell'enorme comprensione e solidarietà, che io sono disposto sempre a regalare quando vinco, perché so quanto cazzo dia fastidio perdere, e non permetto a nessuno di mancarmi di rispetto quando io perdo, perché mi tirano i coglioni. Ma l'ha toccata piano, non se l'è presa tanto il Poz. Vedo Marco Provincialesco di Piceno che è in linea, però prima, allora, altro risultato, altro grande risultato della domenica, questo sì un grande risultato, poi arrabbiatevi pure se dico che la nazionale italiana di rugby, cui io voglio bene, che seguo con tifo, però è una squadra che continua a perdere e io credo sarebbe meglio uscire da questa impasse, ma l'ho detto molte volte, non cambio la mia idea anche se mi insultate. Popolo del rugby di solito non è così, però sei rozzo ed efficiente, eccetera. Continua a pensare in questo modo. Invece, grande l'Italia del tennis che ha battuto l'Argentina, avanzando in Coppa Davis sulle ali di Fognini, che a quanto capito in una divertente siparietto dopo la partita, insomma, molto leggero, molto libero, molto allegro, molto felice, sembra quasi innamorato, sentiamolo. Sì, siamo contenti perché questa vittoria non è solo mia, sì, io ho portato 3 punti, però come ho detto prima, sono 3 punti che è l'insieme di questi 3 punti, io il mio ovviamente l'ho fatto al meglio, ma devo dire grazie a tutta la squadra, dal capitano allo staff medico, a tutti quanti. C'è tanta gioia perché siamo un gran gruppo, l'abbiamo dimostrato già l'anno scorso, stiamo dando conferme, quindi ragazzi siamo un'altra volta nei quarti, giocheremo in casa, quindi il bello della squadra è questo. Marco, provincia di Ascoli, buongiorno. Buongiorno, io purtroppo mi sono inserito forse tardi, io volevo parlare di Inter-Juventus. Sì, non è mai tardi, cioè è tardi, no, perché stiamo per finire il programma, ma tanto torniamo domani su questi temi. Dica. Volevo lanciare 2 sassolini, ok? Sì. Allora, la cosa che mi stupisce è che dopo tanti anni dall'ultimo Calciopoli si parla dello scudetto di cartone dell'Inter che ha durato un anno, ma non si parla delle schede telefoniche che erano vere, non erano di cartone, e che hanno durato per diversi anni. Ma scusi, non le pare che ne abbiamo parlato abbastanza negli ultimi, dunque siamo nel 2014, quello del 2006? Io mi ricordo Giacartone, mi ricordo, no? Ultimamente, il presidente della Juve, Giacartone, si è parlato sempre solo di questo, ma delle schede telefoniche vere non si è parlato più. Ma come no? Poi l'ultima cosa è chiusa, vabbè, comunque sì, va, ho ascoltato io la trasmissione. No, ma non è la trasmissione di oggi, Marco, è la trasmissione degli ultimi, ripeto, 8 anni, mi sembra che... Insomma, che hanno durato per qualche decennio, che hanno durato per una settimana. Comunque, a parte questo, l'ultima cosa, l'ultimo appunto che mi permetto di fare, però se no, se vuole... No, io voglio sentire, non mi dica. Ecco, no, l'ultimo appunto che le volevo dire è che nessuno, questo no, almeno io non l'ho mai sentito, poi probabilmente ho perso delle trasmissioni anche qui, nessuno parla mai del fatto del morale, quanto sia importante nel calcio. Sì. Cioè, quando una squadra fa risultati, poi acquista una certa consapevolezza. Questo molto certo. Questo di quello certo. Che fa il lavoro. Faccio un esempio: il difensore della Juventus che giocava con il Wolfsburg, no? Sì. Che è stato mandato via dal Wolfsburg, è diventato un fenomeno alla Juventus. Barzagli, bravissimo. Ecco, come i risultati consentono ai giocatori di diventare molto più forti, molto più sicuri di se stessi, altrettanto quando i risultati non vengono, e se non vengono a volte perché magari ogni partita c'è un rigore che non viene dato, nessuno però ne parla. Cioè il fatto che l'arbitro influisca in maniera importante non solo sulla partita, ma anche sul morale di una squadra che per tante partite non fa risultati, e di conseguenza diventa ancora più scarsa. No, ma questo è sicuro, Marco, questo è sicuro. Questo il discorso che fa lei è ineccepibile, nel senso, va bene la storia dei rigori che è sottintesa tutto questo, però è evidente che quando ho usato la parola loop la settimana scorsa diverse volte, forse troppe, però entri in questa spirale per cui il risultato non arriva e fai sempre più fatica, è più difficile allenarsi e gli affari di mercato non vanno in porto e poi magari non ti danno il rigore e poi prendi un gol strano. È chiaro che quando entri in un circolo vizioso di questo tipo poi uscirne è molto complicato, e credo che l'Inter sia in una situazione certamente di questo tipo, perché 8 punti in 30 partite, insomma, è una squadra non fortissima, è una squadra di medio livello per il campionato italiano, però non è una squadra che vale 8 punti in 30 partite, questo è fuori discussione. Dobbiamo chiudere, Riccardo, mi scusi, ci sentiamo domani, se vuole intervenire prima della lista. Convocati naturalmente, domani dopo il GR delle 14, Franco Piantini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao. Prova ad andare Martinelli, supera di da campo Martinelli, ancora Martinelli, tutto solo, come Forrest Gump, oddio si è bloccato il computer, Martinelli supera il portiere in sinistro, Martinelli, gran gol del Verona, con me c'è Matteo Dotto, Matteo. Eccezionale Martinelli, meglio di UEA.